da maggio il profumo inonda le strade, il giradischi suona, la Caselli che ha appena sfiorato il mio cuore, bucato la mia vena, le strade risuonano, barricate a Parigi, il mondo si sfila, le calze ed in piedi sfilano gli occhi di nudi baroni, i pugni nel cielo a sfidare il domani della tirannia, cantano i pastori e su Roma e Milano piovono fucili, nelle scuole si respira una voglia di scoprire Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire, il paese si infiamma, è come un pagliaccio, piange e poi ride mentre stringono il laccio, ridiamo alla vita il suo unico volto, riprendiamoci l'aria e anche il silenzio, pattuglie, carri armati non fermano la storia, quando il popolo grida si conquista memoria nelle strade di Praga. Giovani si immolano, sacrificio per coloro che ciechi non vedono, violenti manganelli bastonano a sangue sotto gli occhi atterriti di chi ha chiuso ogni ponte, la fantasia al potere resta ancora un bel sogno da rileggere oggi, come il sogno di un sogno per chilometri in fila a far nascere fiori. Fabrizio arrivava, Luigi Tenco partiva, ma di loro oggigiorno ancora si parla, di quell'anno che resta ai miei occhi una perla. Ditemi quando torneranno i volantini, dove scrivevamo con gli occhi lettere ai contadini. Ditemi quanto tempo aspetteremo prima di ritrovare la strada di ogni uomo.